martedì 19 dicembre. Ciao a tutti e a tutti. E ben sintonizzati su Radio Onda Rossa. Questa è Note, Cose e Città. Un saluto a tutti i simpaticoni che ci seguono su Twitter, un saluto a Dischi Volanti, un saluto a Sir Max, a XO. Questa puntata e questo podcast sono per voi. I nostri contatti 06 49 17 50. Note Cose Città, @ondarossa.info, e potete venirci a trovare e a ritirare la vostra copia di Scarceranda, siamo in via dei Volsci 56. Allora, ultima puntata per questo 2017, l'anno prossimo torneremo con un sacco di novità, perché oltre a raccontarvi storie legate alla musica, attiveremo anche il nostro servizio di podcast online, quindi se avete bisogno di un podcast potete contattarci. E parallelamente faremo anche un servizio di refusi, quindi se avete bisogno di un refuso efficace non esitate a scriverci. Oggi andremo un pochino più lunghi del solito perché abbiamo tanta tanta musica, e insieme a me c'è Fabio, reduce da una notizia che l'ho abbastanza sconvolto, perché la scorsa settimana c'è stato un cambio al vertice di una nota rivista di musica italiana. Il nome di Fabio era il nome più ghiotto, il nome più papabile, ma alla fine è stata scelta Selvaggia Lucarelli. E noi, pur esprimendo, insomma, pur rispettando la scelta degli editori, ci permettiamo comunque di avere il nostro rammarico per un'occasione che secondo noi è persa. Fabio, sappiamo che ti sei sentito con Selvaggia, cosa le hai detto? Le hai dato qualche consiglio su come muoversi? No, nessun consiglio. Hanno vinto i poteri forti, questo l'ho detto. Allora, dove andiamo oggi? E oggi andiamo in giro per l'anno che sta per concludersi. Cioè, oggi il luogo scelto è il 2017 ed è semplicemente una scusa per mettere un po' di bella musica, secondo noi, musica nuova, contemporanea dell'anno appunto in corso, che non abbiamo mai ascoltato durante questo autunno. Musica che ci è piaciuta, però, dai. Certo, e speriamo che piaccia anche a voi. Allora, la prima parte di questa trasmissione è dedicata agli album che ho scelto, che ho selezionato io, quindi se avete ancora faccende da sbrigare approfittate, perché tra 40 minuti arrivano le selezioni di Fabio. No, tra 20 minuti. Tra 20 minuti le selezioni di Fabio, poi ci sarà un altro momento sempre di selezioni mie, quindi se, insomma, se non avete finito di far tutto potete farlo per tornare poi alla grande con la chiusura del buon Fabio. E allora noi partiamo con il primo disco. Loro sono i Timber Timbre, l'album si chiama Sincerely Future Pollution. Loro sono un gruppo canadese, questo è il loro sesto album, che è uscito il 7 aprile per la City Slang, un'etichetta che ha anche sotto contratto altri gruppi come Lambshop, i Calexico, i Natasurf e Tindestick. Il gruppo ruota intorno a Taylor Kirk, la cantante, compositore e polistrumentista. È il disco probabilmente più concettuale di questo gruppo, che a me personalmente piace tanto tanto. Il primo pezzo che ci ascoltiamo si chiama Skin Tone e loro sono i Timber Timbre. Thank you. E questi erano i Timber Timbre. E noi andiamo avanti perché oggi abbiamo tanta musica, quindi parleremo molto poco. E il prossimo disco è tratto dal nuovo album dei Burnt Sugar Orchestra Chambers. Loro si descrivono così sul loro sito: il Burnt Sugar è stato originariamente concepito come un forum di improvvisazione rivolto a musicisti di New York per comporre, registrare e realizzare materiale che riflettesse la varietà e la profondità della musica americana del XXI secolo. L'intento della Camera Orchestra, attraverso il ricorso al sistema di conduzione di Butch Morris, è quello di trasformare ogni spettacolo in una nuova interpretazione delle sue parti costitutive. Butch Morris era un cornettista, un compositore e direttore morto qualche anno fa, e lui aveva elaborato un originale concetto di improvvisazione guidata, ovvero il direttore può, durante un'orchestrazione e durante l'esecuzione di una musica, avviare un processo di mutamento immediato nell'articolazione, nel fraseggio e nella metrica, ma anche produrre un mutamento del ritmo. Il disco è un susseguirsi di jazz, funky, soul e pop, quindi a tanti momenti c'è anche della musica d'avanguardia dentro, è impossibile racchiuderli in un solo genere, e noi ci ascoltiamo uno di questi momenti. Il pezzo si chiama Quote the Raven e loro sono i Burnt Sugar Orchestra. Subito con il prossimo gruppo, e anzi poi il prossimo cantante, perché stiamo parlando di Ghost Poet, quindi ci trasferiamo in Gran Bretagna. L'etichetta è Play Hit Game Sam. Questo è il quarto album per Ghost Poet, che riprende alla grande quello che da qualche anno, dagli anni 90, è il suono di Bristol, ovvero il trip hop. Ricordiamo proprio di Bristol, sono infatti Massive Attack, che alcuni membri collaborano anche in questo album, i Portishead o Tricky, quindi tutti i massimi esponenti di questo genere. I testi di questo album sono molto impegnati, temi di attualità, in particolare i Immigrant Boogie, sulle condizioni disumane vissute sui barconi dai migranti, fino al dramma delle morti bianche e morti sul lavoro. Il pezzo che ci ascoltiamo si chiama Dark Days e lui è Ghost Poet. toes, Instagram your foes. I do that a lot. Yeah, embrace the kind of change. Strollers in the rain, sheepskin seats. Dying to sweat me up. Daylight had enough. Setting me free. But what's it all to you? Problems of your own. Maybe in time you tell me why you walk the earth all alone. Yeah, what's it all to you? Problems of your own. Maybe in time you tell me why you walk the earth all alone. What am I? Surely a girl. Across the land, panic in the air. I'm staying afloat. Feel it on my skin, sprouting from within, setting me free. But what's it all to you? Problems of your own. Maybe in time you tell me why you walk the earth all alone. Yeah, what's it all to you? Problems of your own. Maybe in time you tell me why you walk the earth all alone. What's it all to you? Problems of your own. Maybe in time you tell me why you walk the earth all alone. Of your own. Maybe in time you tell me why you walk the earth all alone. Allora, questo era Ghost Poet, grandissimo disco approvato da Fabio, che è il valore aggiunto per questo disco. Questo muove un milione di copie, così Fabio, questo disco al volo. E noi andiamo avanti con il prossimo album. Il prossimo album è di un gruppo australiano che si chiama King Gizzard and the Lizard Wizard. Ecco, questi sono veramente dei matti veri, perché loro hanno annunciato che nel 2017 sarebbero usciti con ben 5 dischi. Al momento ne sono usciti 4, almeno io ho controllato ieri, a meno che non è uscito oggi pomeriggio il quinto, però questo non lo so, perché oggi onestamente c'è qualche altro da fare. Però il disco che ci ascoltiamo, se non sbaglio, è il terzo. E e loro sono un gruppo nato nel 2010, si ispirano chiaramente a un linguaggio abbastanza zappiano, lo sentiremo con questo valzer psichedelico che ho scelto, che si chiama TZ, e noi ce l'ascoltiamo. Il disco è un po' un miscuglio di pop, di funky e di jazz. Il titolo anche Sketches of Brunswick East richiama anche lo Sketches of Pain di Miles Davis, forse sarà un omaggio a loro. E andiamocelo ad ascoltare. Remember, scheda, il brano termina qui perché l'album è composto da le tracce che sono tutte attaccate all'altro. E noi ritorniamo in America perché abbiamo il prossimo artista che risponde al nome di Steven Brummer, in arte Thundercat, bassista e compositore americano che si ispira decisamente nel suo modo di suonare a Jaco Pastorius. Il pezzo che abbiamo scelto infatti ve lo ricorderà tantissimo. Lui ha iniziato a lavorare con Kendrick Lamar, suonando tra l'altro sul primo album Pimp a Butterfly. Ha suonato con Erykah Badu, che non è il primo album però, eh? Non è il primo album, no, no, giusto, non è il primo album, ha suonato, no, scusami Fabio, il suo primo album dove ha cominciato è stato quello di Kendrick Lamar. Ha suonato anche con Erykah Badu, con Kamasi Washington su The Epic, e all'interno di questo disco c'è tanta black music, c'è Stevie Wonder, Prince, hip hop, c'è George Clinton e ci sono anche tantissimi ospiti, c'è Lamar in particolare che diciamo contraccambio il favore, c'è lo stesso Kamasi Washington, e noi ci immergiamo in questi 2 minuti e 16 di puro funky jazz in perfetto stile Pastorius. Questo è Thundercat, il pezzo si chiama Huhu. Thundercat. E noi andiamo avanti con l'ultimo disco del mio primo blocco. Ci spostiamo in Inghilterra e viriamo verso l'hip hop perché ci andiamo ad ascoltare l'esordio di Loyal Carner. Lui è uno dei tanti artisti che, come Thundercat, ruota intorno alle influenze di Kendrick Lamar, che in quest'album viene addirittura omaggiato nella copertina del disco, che ricorda appunto moltissimo To Pimp a Butterfly. Il 20 gennaio 2017 esce questo album che a soli 22 anni porta Loyal Carner come, insomma, artista di punta dell'hip hop britannico. Il disco è molto intimo, molto autobiografico, per carità, è anche molto languido, però a me è piaciuto tanto. I temi sono quelli dell'abbandono, perché il padre lo ha lasciato da piccolo, lui ha avuto un'infanzia particolarmente difficile, poi c'è stata la morte del nuovo compagno della mamma che l'ha abbastanza traumatizzato. E noi ci ascoltiamo la traccia che apre l'album, dove sentiamo anche richiami, influenze sul gospel. Il pezzo si chiama The Isle of Arran e lui è Loyal Carner. Look, no, I don't believe him. But know that I've been grieving. Know that I've been holding out, hoping to receive him. I've been holding out for G, but he was nowhere to be seen when I was bleeding. Cousin with the choking and the wheezing. But still he dreamin' smoking potent in the evening. This is only for the heathens. Holding to the souls who need redeeming from the demons. Still ain't folding when it's freezing. There ain't no one to believe in. I'm on that man's side, damn right. Doing it myself from a landslide. Stand by, didn't need no help from no damn guy. Man, bye, I've been making waves all my damn life. Plan my step to the letter and I stand by it. Try it, we ain't holding back if it backfires. Lax, not the ones who carry crack till they're back tired. Thought they'd make a meal till it transpired. I ain't like them damn liars. I'm saying it like, ain't like them damn liars. Trust, told him I get like them damn liars. So keep your mouth closed shut, eyes wide open when that doubt rolls up. Cause if the drought shows nothing but the clowns, holds nothing but the sound, I'll be running till the ground open up. Cause the best don't change, clicking to that cold one. My mother said there's no love until you show some. So I showed love and got nothing, now there's no one. You wonder why I couldn't keep in tow, son. I wonder why my dad didn't want me, ex didn't need me. Half of them left and the rest finna breeze me. Gets blessed till I second guess, rest till it frees me. There's nothing to believe in, believe me. Little bit of life after death. Scattered my ashes when it's my time to rest. With the lines I'm obsessed, rhymes I possess, can't deny. Seen the biggest guys cry to confess in the breath. Fresh death, pass in the chest, unimpressed with the cess left. Scars in the flesh, he's the best. Worst kept sparring in jest, saying star never bar too far from the nest. So I never left and never thought about doing so. I took and fro from that prime time to a home. You see, I'm viewing those nights I should have known better. Like whatever, still my brethren say I'm too involved. But who would know what the family first is? Till your dreams see three family hearses. Worst is, wouldn't mean to speak at the service. So I penned a couple bars, didn't need to rehearse this. Questo era Lo Il Carnere. Io vi ricordo che siete sempre sintonizzati su Radio Onda Rossa, questa è Note Cose Città, e ce ne stiamo andando a spasso per il 2017. Vi stiamo facendo sentire un po' di dischi che ci sono piaciuti. Ora è il momento della prima selezione di Fabio e direi che partiamo a bomba, forse col top. Beh, forse sì, continuiamo comunque sulla strada che hai appena tracciato, anche perché cominciamo con un artista che abbiamo nominato, che hai nominato tu negli ultimi due album, cioè partiamo da Kendrick Lamar, dicendo una cosa abbastanza ovvia secondo me, che nel suo caso si può dire che nel suo genere è il migliore in circolazione, punto. To Pimp a Butterfly, che hai nominato tu, è stato un disco enorme che in qualche modo ha cambiato l'hip hop, l'ha portato a un livello forse più alto, non so come dire. Questo disco, il disco di quest'anno, Damn, è profondamente diverso, cioè ha abbandonato le basi jazz, funk, ha abbandonato quella complessità negli arrangiamenti e nella struttura dei pezzi, ha fatto qualcosa di molto più semplice, di più tradizionale. Il suono dominante nel disco è quello della drum machine, e fa molto rap anni 80, 90, soprattutto il gangsta con cui lui è cresciuto. Lui è di Compton, Los Angeles, e che altro dire, è un gigante, è un grandissimo disco, anche se forse non è a livello del precedente. Io ho scelto come canzone manifesto dell'album la canzone che dopo l'intro apre, e si chiama DNA, e buon ascolto. Io devo dire, ci ho messo un po' a farmi salire Kendrick Lamar, quindi questo se può consolare chi magari trova difficoltà nell'ascoltarlo, però effettivamente sentendolo tante volte devo dire che è veramente un gradino in più. gas waiting for the I got loyalty, got royalty inside my DNA. Cocaine quarter piece, got war and peace inside my DNA. I got power, poison, pain and joy inside my DNA. I got hustle, though ambition flow inside my DNA. I was born like this, and sworn like this, immaculate conception. I transform like this, perform like this, wish y'all shoot a new weapon. I don't contemplate, I meditate, then off your fucking head. This that put the kids to bed, this that I got realness. I just kill shit cause it's in my DNA. I got millions, I got riches building in my DNA. I got dark, I got evil that rot inside my DNA. I got off, I got trouble, some heart inside my DNA. I just win again, then win again like Wimbledon I serve. Yeah, that's him again, the sound, the engine in is like a bird. You see fireworks and Corvette tires skirt the boulevard. I know how you work, I know just who you are. See, use a bitch, your hormones probably switch inside your DNA. Problem is, all that sucker shit inside your DNA. Daddy probably snitch, heritage inside your DNA. Backbone don't exist, born on side a jellyfish I gauge. See my pedigree, most definitely don't tolerate the front. Shit I been through probably offend you, this is Parler's oldest son. I know murder, conviction, burners, boosters, burglars, ballers, dead. Redemption, scholars, fathers, dead. With kids and I wish I was fed. Forgiveness, yeah. Soldier's DNA, born inside the beast. My expertise checked out in second grade. When I was 9, on sale motel, we didn't have nowhere to stay. At 29, I've done so well, hit cartwheel in my estate. And I'm gon' shine like I'm supposed to. Antisocial extrovert, and excellent mean an extra work. And absentness, what the fuck you heard? And passiveness never struck my nerve. And that's a riff gonna be this case. The reason my power's here on earth. Salute the truth and the prophecy. I got loyalty, got royalty inside my DNA. This is why DNA. I say that hip-hop has done more damage to young African Americans than racism in recent years. I live about my fucking life. This is my heritage, all I'm inheriting. Money and power, the maker of marriages. Tell me something, you motherfuckers can't tell me nothing. I'd rather die than to listen to you. My DNA not for imitation. Your DNA an abomination. This how it is when you in the matrix. Dodging bullets, reaping what you're sowing. Stacking up the footage, living on the go and sleeping in the villa. Sipping from a Grammy, walking in the building. Diamond in the ceiling, marble on the floors. Peaches out the window, peeking out the window. Baby in the pool, Godfather goes. Only Lord knows, I've been going hammer. Dodging paparazzi, freaking through the cameras. Eat it for daughters, Brock wearing sandals. Yoga on a Monday, stretching to the Venna. Watching all the snakes, curving all the fakes, phone never on. I don't conversate, I don't compromise. I just penetrate, sex, money, murder. These are the breaks, these are the times. Level number 9, look up in the sky. Tennis on the way, sentence on the way, Kenneth's on the way. Motherfucker, I got winners on the way. You ain't shit without a buddy on your belt. You ain't shit without a ticket on your plate. You ain't sick enough to pull it on yourself. You ain't rich enough to hit the light of skate. Tell me when destruction gonna be my fate. Gonna be a freak, gonna be a fake. Peace to the world, let it rotate. Sex, money, murder, DNA. E questo era il grandissimo Kendrick Lamar. Per la prossima traccia scelta restiamo negli Stati Uniti. Loro sono un gruppo che ha esordito 2 anni fa con un disco folgorante, si chiamano Algiers. Il disco di quest'anno è intitolato The Underside of Power. E sono tornati come ce li ricordavamo dopo il primo disco, cioè armati di rabbia, consapevolezza, spiritualità. Suonano una miscela abbastanza unica grazie alla voce di Fisher, del cantante. E una miscela unica, dicevo, che riescono a unire il post-punk con qualcosa che di simile al gospel, diciamo così, per la loro militanza politica, visto sono molto, diciamo, militanti impegnati, ricordano, possiamo accostarli ai Rage Against the Machine degli anni 10, insomma. E la canzone che ho scelto si chiama Cleveland, e una canzone che rievoca il movimento dei Black Lives Matter. E che come saprete dal 2012 ormai è in lotta negli Stati Uniti contro ogni forma di razzismo, e questo appunto è Cleveland. Buon ascolto. Yeah. arrivato un trillino, quindi mi sa che lo rimettiamo. Finisce così. E dopo gli Algiers facciamo un salto abbastanza brusco e veniamo qui a Roma. E l'artista scelto si chiama Flavio Giurato, classe 49, un cantautore che possiamo definire di culto nella scena indipendente romana, ma non solo romana. Lui, dopo un inizio di carriera abbastanza fortunata dal punto di vista commerciale, ha abbandonato la Warner, ha abbandonato l'industria musicale e viene considerato il primo musicista indie italiano. Dal suo primo disco, che si chiamava Per futili motivi, che si chiama ancora Per futili motivi, sono passati 40 anni. In questi 40 anni ha fatto appena 6 dischi, tra questi un disco che si chiama Il tuffatore dell'82, che troverete per i più curiosi in tutte le classifiche dei dischi italiani più belli di sempre, in quelle cose che fanno i pazzi appassionati di musica come noi, lo trovate più o meno sempre. Lui ha lavorato in questi, faceva anche altro, quindi ha fatto il regista in Rai, lui è fratello di Luca Giurato, che conoscerete probabilmente, ha lavorato nelle carceri e negli studi psichiatrici come musicoterapeuta, e di Montesacro, dove ha una casa bottega, tant'è che lui si definisce un artigiano. Questo suo ultimo disco si chiama Le promesse del mondo, è veramente veramente di una bellezza feroce ed è una sorta di concept sul tema dell'immigrazione. Immigrazione, che è il tema che poi torna in tanti degli artisti che abbiamo già ascoltato e che ascolteremo, è un tema molto presente in questo 2017. La canzone si chiama I lupi e buon ascolto. questo era Flavio Giurato. Adesso prendiamo un aereo e ce ne andiamo da Montesacro, da Roma, ce ne andiamo a Cuba. Loro sono le Bay, Naomi e Lisa Diaz, due gemelle franco-cubane che nate, possiamo dire, con la musica nel sangue, visto che il padre Armando Diaz suonava le percussioni nel Buena Vista Social Club. Nello spazio di un solo disco, del loro esordio, un disco di un paio di anni fa, sono diventate un piccolo fenomeno, e con ingredienti abbastanza semplici poi in fondo, perché uniscono elettronica a strumenti tradizionali, stili a lingue diverse, il francese, l'inglese, lo spagnolo e anche lo yoruba, un dialetto, se si dice dialetto, non lo so, nigeriano, parlato anche a Cuba. E questo album si chiama Ash e la canzone scelta è Deathless, scelta non solo perché è bella ma anche perché qui suona il sassofono Kamasi Washington, che abbiamo nominato prima parlando di Kendrick Lamar e parlando di Thundercat, insomma, quindi un nome grosso e buon ascolto. Questa era eBay, io vi ricordo che siete sempre su Radio Onda Rossa, che questa è Note Cose Città e che vi stiamo facendo ascoltare qualche album che ci è piaciuto quest'anno. Andiamo avanti, Fa. Andiamo avanti. Cosa facciamo tardi oggi? Dai, dalle spiagge cubane prendiamo un aereo e andiamo in Nebraska. E l'autore, l'artista è Conor Oberst, più conosciuto forse come sotto il nome di Bright Eyes. questo è un album particolare, l'album si chiama Salutation, in cui lui ripropone dei pezzi che aveva già registrato in un disco di poco tempo fa, di ottobre del 2016. Il disco era particolare perché era nato dopo la diagnosi di una cisti al cervello, un'operazione, un esilio in montagna. Registrò questo disco praticamente in solitudine, disco molto malinconico, segnato dal dolore, diciamo così, ma molto molto bello, risuona questi pezzi con anche qualche inedito insieme a una band vera e propria, quindi riarrangia il tutto. La band che ha scelto è un gran gruppo, si chiamano i Felix Brothers. Alla batteria c'è Jim Keltner, è un monumento, un mostro sacro della batteria, un session man americano che ha suonato più o meno con tutti, dagli Stones, Ray Cooder, insomma con tantissimi artisti. E la canzone che abbiamo scelto, che ho scelto, si chiama Tachycardia. È un pezzo che dopo poche note, dopo pochi accordi, mi sembra di conoscere da sempre. È abbastanza palese la vicinanza, che il fatto che la sua stella polare sia Dylan non è assolutamente un male. È un brano molto semplice, molto... Ti piace Dylan, Fabio, a te? Leggermente, è molto bello. Tachycardia. It's a mass grave, $1.50 rest in place on the north face. There's a rope I gotta climb. I'm a stone's throw from everyone I love and know, but I can't show up looking like I do in an old suit. My hair is slicked back nice and smooth in a court room. Sweat rolling down my back. It's a bad dream to have it seven times a week. No, it was not me, but I'm the one who has to die. Draw to slow his tachycardia in a dark bar. This world just melts away and it feels fine. If he could just lose track of time, it's a good sign when he can't stay awake on a slow day. Rain against the window pane of the cafe. She spills the coffee grounds in the same thought. Hits her like a cinder block. Life's an odd job, but she don't got the nerve to quit. There, at the bottom of those spiral stairs, it's the world fair. The future's on display in the dark night. They turned on the electric lights in the crowd. E allora io intanto ringrazio da casa che mi scrivono: quando parli la grammatica vola e muore. Grazie, ti amo anch'io. Andiamo avanti con Vagabond, nome d'arte di Letizia Tamco, una cameronese emigrata negli Stati Uniti, e ha fatto il suo primo disco quest'anno, si chiama Infinity Words. e ha fatto molto parlare di sé, tant'è che il disco dell'anno secondo la cosiddetta Bibbia della musica indipendente, che è Pitchfork, e fa qualcosa che sta a metà strada tra folk e punk. Il pezzo che stiamo per ascoltare è abbastanza esemplificativo di questo, dove dalla strofa passa un ritornello che ha chitarre che sembrano prese proprio dai Built to Spill degli anni, pieni anni 90. Il pezzo si chiama The Embers. I feel so small, my feet can barely touch the floor. On the bus where everybody is tall, erano i Vagabond, artista portoghese, artista era Vagabond, artista del Camerun, e noi ci trasferiamo adesso, ritorniamo in Europa e siamo in Portogallo. Lei è Lula Pela, questo è il terzo disco per quest'artista di cui si è parlato tanto, perché ha fatto pochissimi dischi durante la sua carriera, ma sempre stupendi, molto particolari, a tanti estimatori in tutto il mondo. Il disco ha alla base il fado, la musica tradizionale del Portogallo, però poi inizia ad esplorare tanti altri mondi, dalla chanson francese, va alla bossa nova, la morna, si spinge fino all'Africa, fino a Capo Verde. Ha una voce molto particolare, è stata definita una voce tra Tom Waits e Leonard Cohen. Noi ci ascoltiamo la prima traccia, quella che apre il disco, che si chiama Poema, e lei è Lula Pena. De la famille de la soie de que ce soit l'hiver, soit l'hiver, soit détesté. Je suis de la famille l'ennemi. E questa era Lula Pena, un disco veramente veramente bello. Se vi piacciono queste sonorità ve lo consiglio caldamente. E noi adesso ci trasferiamo con un passaggio che assolutamente non è per niente difficile, perché dal Portogallo attraversiamo l'oceano e ce ne andiamo direttamente in Brasile e ci ascoltiamo un artista, un chitarrista. Lui si chiama Fabiano do Nascimento, l'album è Tempo dos Mestre. Lui è un pupillo di Ayrton Moreira e che qui va un po' alla ricerca delle radici della musica brasiliana. Sarà Fabiano da Nascimento, bello anche quest'album, ve lo consiglio. Bellissimo. Molto molto bello. Allora andiamo avanti, ritorniamo da un artista africano, anche se poi per questi album si è spostato negli Stati Uniti, perché per lui è la prima volta che ha registrato per l'etichetta Blue Note. Stiamo parlando di un giovanotto, mi sembra che abbia 77 anni, nel 2017 ha compiuto 77 anni e lui ha registrato due dischi eccellenti. Il primo è un omaggio ad Art Blakey, una rivisitazione di Monin. Invece il secondo album è quello che ci andiamo ad ascoltare adesso e si chiama The Search, e il pezzo è Cool Cats e lui è il grandissimo Tony Allen. E questo era quel giovanotto di Tony Allen. Noi andiamo avanti perché è un pochino tardi, abbiamo ancora un sacco di musica, e lo facciamo con un prossimo artista, un artista di New Orleans. Lui si chiama Benjamin Booker, che torna a distanza di 3 anni e lo fa alla grande con questo disco veramente bello, pieno di rock, soul e blues. La copertina dell'album immortala Booker con lo sguardo fisso nel vuoto in una camera buia, e alle sue spalle è posizionato uno specchio dove si può leggere la scritta Witness, scritta al contrario. L'intento di Booker è quello di denunciare di essere il testimone della situazione tragica del razzismo nei confronti dei neri e degli afroamericani negli States. Lui stesso in molte interviste ha raccontato molti episodi di cui, insomma, è stato protagonista o che lo hanno coinvolto in prima persona. Esasperato da questa situazione, lui ha deciso di trasferirsi a Città del Messico per cercare ispirazione, e l'ispirazione direi che è proprio arrivata, perché l'album si chiama Witness e il pezzo bellissimo si chiama Right on You. E questo è Benjamin Booker, bellissimo questo disco Witness, il brano si chiamava Right on You. E noi andiamo avanti, J.D. McPherson, il prossimo artista dell'Oklahoma, è un disco, lo mettete lì, lui si fa ascoltare, un disco ispirato al rock and roll degli anni 60, reinterpretato con uno stile decisamente moderno. E noi ci ascoltiamo uno dei tanti singoli dell'album, questo si chiama Lucky Penny, J.D. McPherson. Another day ends, another begins, another night sleeping on needles and pins. I keep rolling where the battle wind blows. I keep running, but the trouble follows. Ain't no telling where I'm gonna end up. This lucky penny's been nothing but bad luck. Never. been nothing but bad luck. E questo era J.D. McPherson. Allora andiamo avanti con il prossimo artista, l'ultimo del mio blocco, poi ci stanno quelli di Fabio, quindi attenzione, non ve ne andate. Il prossimo gruppo, loro si chiamano i Priest, sono una punk band di Washington e fanno il loro esordio nel 2017, avevano pubblicato negli anni passati soltanto singoli e loro fanno una sorta di punk, di garage rock con un po' di Sonic Youth, un po' di Cure, e andatevi a vedere i video, sono molto molto divertenti, loro fanno dell'ironia la loro arma forte. E noi ci ascoltiamo questo pezzo veramente molto molto carico, No Big Bang. And E da Washington? Da Washington torniamo a Bristol, torniamo perché già c'eravamo stati prima con Ale insieme a Ghost Poet, e però il territorio è simile, quello musicale, forse un po' più, sono un po' più cattivi loro, parliamo degli Idols, che appunto. Ma pure Bristol, guarda se si incavolano. Sì. Gli Idols vengono, diciamo, da Bristol, fanno. E sono. Questo è il loro debutto, si chiama Brutalism, 13 canzoni che arrivano dritte, dritte al cuore davvero. I testi dell'album sono una sorta di vademecum di tutto, del disagio giovanile britannico post-Brexit, disoccupazione, sfiducia nelle istituzioni, criminalità, alcolismo. Descrivono nelle loro canzoni un quadro simile a quello dell'Inghilterra di fine anni 70, l'Inghilterra della Thatcher, tant'è che i loro modelli musicali poi sono quelli del primo punk inglese, i Clash, i Sex Pistols, i Fall di Mark Smith soprattutto, con un occhio anche ai Three for Moods. Questa è Well Done. Well done! Why don't you get a job? Even Tarquin has a job. Mary Berry's got a job. So why don't you get a job? Well done, why don't you win a medal? Even Tarquin wins a medal. Mary Berry's got a medal. So why don't you get a medal? Well done. I'd rather cut my nose off to spite my face. I'd rather buy my nose off to spite my a degree. Even Tarquin has a degree. Mary Berry's got a degree. So why don't you get a degree? Well done. Why don't you like reggae? Even Tarquin likes reggae. Mary Berry loves reggae. So why don't you like reggae? Well done. Why don't you watch football? Even Tarquin likes football. Trevor Nelson loves football. So why don't you watch football? Well done! I'd rather cut my nose off to spite my face. I'd rather cut my nose off to spite my... Ah! Adesso dopo gli Idols il cambio è abbastanza radicale, perché ascoltiamo un gruppo americano, un gruppo di Brooklyn, fanno un genere che viene definito alt country, si chiamano Big Thief e questo è il loro secondo album dal nome Capacity. È un disco molto molto intimo, la cantante Adrian Lenker sembra quasi un'amica che ti racconta storie personali, insomma sembra quasi confidarsi durante il disco. La canzone scelta si chiama Shark's Smile. Shark smile in a yellow too. Baby, take me. And I said, baby, take me too. You came over at bedtime, riding through an aura down the dotted line. Hell is coming out, 90 miles down the road of a dead end dream. She looked over with a part smile, caught up in the twinkle, it could take a while. E restiamo in America e lui è Andrew Savage, il cantante di Parquet Courts, forse il gruppo post-punk più importante degli ultimi anni. Questo è il suo debutto da solista, si chiama Tavin Down ed è un disco veramente stupendo e qua fa tutt'altro rispetto al suo gruppo principale, al suo incarico principale. Il pezzo scelto si chiama Eyeballs, è molto Pavement, in un mondo più giusto darebbe primo in classifica. Questa era Hey Balls, noi vi ringraziamo per i trillini, però è veramente tardi, non possiamo. Fabio ce lo cresce la puntura alle 10. Alle 10, sì. Alle 10, allora dai, sì. Dai, dai, sì. Dai, allora andiamo in Australia, loro si chiamano Rolling Blackout Coastal Fever, e è uno dei dischi che ho sentito più quest'anno, per quello che vi può interessare. È un gruppo pieno. Scherzi. Pieno di influenze stupende, i Go Between, i Phillies, gli Orange Juice, i Rem, questo EP si chiama French Press, sembrano destinati a grandi cose, tant'è che la Sub Pop ha messo le mani sopra, aspettiamo un disco completo per il 2018 e buon ascolto. Questa è la traccia omonima, French Press. Thank you. siamo arrivati quasi alla fine di questo percorso lungo il 2017. Il prossimo artista, e mi emoziono proprio a presentarlo perché gli voglio bene, Billy Bragg. E Billy Bragg ha fatto uscire durante quest'anno 4 canzoni così sparse durante l'anno, e invece poche settimane fa ha pubblicato per la Cooking Vinyl un EP, si chiama Bridges Not Walls, che come avrete capito dal mio perfetto inglese è ponti e non muri, e a cui ho aggiunto due inediti. Scegliere la canzone è stato abbastanza complicato, e c'era Full English Brexit, una canzone stupenda, Safia Smiles, dedicata alla ragazza che, come ricorderete, a Birmingham ha riso in faccia al fascista, al leader della formazione fascista ETL, e poi la scelta però è andata su The Sleep of Reason. Vado? Vai, scusa. Buon ascolto. One by one, the stars go dim and fall out of the sky. We gather round our shiny screens to say the last goodbye. Communion with a bunch of folks that we don't know or see, in the hope that we might feel something in place of empathy. And so it goes. Sure gonna miss him. Is it wrong to cling to the past when love comes at you so fast? And the sleep of reason produces monsters. Can no longer hold the flood, and expertise and experience get trampled in the mud. And so it goes. Guess they had it coming. Now there's nothing that you can do to convince them that lost my friend. Move on, just let it go. Says a man who flies a Confederate flag on his profile just to show. When he hears someone point out that things are much too male and white, well, he eases off the safety catch on his Second Amendment rights. And so it goes. Kids are all right, giving license to all this hate. It's gonna make our country great. And the sleep of reason produces monsters. And the sleep of reason produces monsters. In this constant state of what the heck just happened, you feel woke, but through it all you treat it like it's just some kind of joke. And in the end, the greatest threat faced by democracy isn't fascism or fanaticism, but our own complacency. And so it goes. Pay attention, for there's simply no guarantee of a happy ending. E questo era Billy Bragg. Noi ci avviamo verso la fine, è rimasto un solo album da presentare, che sarà onore di Fabio farlo. E io vi ricordo che questa era l'ultima puntata per questo 2017. Noi ci rivediamo il 9 gennaio 2018, dove andremo alla Hall of Fame. E allora, Fabio, Rock and Roll, Rock and Roll of Fame, per l'esattezza. Fabio, a te la chiusura. La chiusura la affidiamo a Benjamin Clementine. La sua storia è stata raccontata tante volte, di origine ghanesi, londinese di nascita, parigino di adozione. Ha lasciato la scuola per vivere come un senza fissa dimora, si è fatto strada a Parigi solo col suo talento, ha pubblicato un disco d'esordio pazzesco, e At Least For Now, adesso torna dopo 2 anni, è tornato con quest'ultimo ai Tell a Fly, dove non ripropone la formula che gli sarebbe venuta molto, molto facile, quella dell'esordio appunto, ma mescola in questo album soul, canzone d'autore, arrangiamenti a tratti magari anche troppo complessi, a rischio Bjork, come ha detto qualcuno, a dominare lungo tutto l'album, che è una sorta di, anche questo una specie di concept album, il tema dei migranti. E la canzone scelta lo fa però in modo abbastanza, almeno nella forma, leggero, sembra quasi un musical. La canzone si chiama By the Ports of Europe e al 2:18. By the ports of Europe, by the ports of Europe, by the ports of Europe, by the ports of Europe, by the ports of Europe, by the ports of Europe, by the ports of Europe, by the ports of Europe, by the ports of Europe, by the ports of Europe, by the ports of Europe, by the ports of Europe, by the ports of Europe, a free lion's angry, Bafalas are coming. Everyone's a coming, everyone's a coming, everyone's a coming by the ports of Europe. Everyone's a coming, everyone's a coming, everyone's a coming by the ports of Europe. Everyone's a coming, everyone's a coming, everyone's a coming by the ports of Europe. By the ports of Europe, a thief whispers the princes, should we leave? Out of board.